fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, e discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e basta appena per me. 16:02, l'ora di buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Come ogni martedì in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a... 06 49 17 50 è il numero di telefono con cui potete intervenire in trasmissione. Sempre in fila per tre, marciate tutti con me, ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione. Ora di buco @ondarossa.info se invece volete scriverci. Una puntata questa ancora interamente dedicata alle tematiche del referendum di Bologna, che appunto è stato celebrato domenica scorsa e con risultati direi più che favorevoli. Hanno partecipato al voto circa 86.000 cittadini e cittadine bolognesi e il 59% hanno votato perché venga abolito il finanziamento comunale alle scuole, al finanziamento del comune di Bologna alle scuole dell'infanzia paritarie. Al telefono con noi Isabella, una delle promotrici del referendum con cui abbiamo parlato prima. Pronto, ci senti? Sì, pronto, buonasera a tutti, grazie. Ciao, e innanzitutto complimenti, insomma siamo contenti e contente di festeggiare con te questa vittoria. Grazie, sì, siamo molto felici, devo dire la verità. E non nascondiamo che dopo tanta tensione, dopo tanta fatica, questa è la vittoria, una piccola vittoria della scuola pubblica, piccola ma grande allo stesso tempo. Senti, ci vuoi un po' appunto in sintesi raccontare quali sono stati i risultati e cosa chiedevate, cioè qual era il quesito, insomma, per chi ancora non fosse al corrente? Certo, noi chiedevamo nel quesito ai cittadini bolognesi se appunto secondo il vigente sistema delle convenzioni dove preferivano, diciamo, destinare circa 1.200.000 euro che oggi vengono destinate alle scuole paritarie, quindi alle scuole private. E appunto noi ponevamo questa domanda nel quesito, diceva vuole che venga destinata alle scuole statali e comunali, quindi le scuole pubbliche a gestione pubblica, oppure nelle scuole paritarie, quindi a gestione privata. E cosa dire, cioè 86.000 cittadini si sono espressi, e più di 50.000 hanno scelto l'opzione A, quindi vogliono che questi soldi che adesso vengono stanziati per le scuole paritarie vengano invece indirizzate verso la scuola a gestione pubblica. E quindi questo è l'esito, per noi una grande vittoria, ma lo dico con molta serenità, una grande vittoria semplicemente perché noi, un gruppo di cittadini e di associazioni comunque di cittadini, associazioni locali, abbiamo usato sfidare i poteri, l'apparato di poteri forti, tutti, sia a livello locale che a livello nazionale, che si sono messi contro di noi in difesa della scuola, dei finanziamenti alle scuole paritarie, in barba all'articolo 33, che tra le altre cose ci dà anche il titolo del nostro comitato, che appunto recita nel suo comma secondo che enti privati possono appunto istituire scuole private ma senza oneri per lo Stato. E noi, diciamo, la molla che ha fatto scattare questa voglia della difesa del diritto all'istruzione, quindi di rendere esigibile tale diritto nelle scuole che la Costituzione garantisce. La moda che ci ha fatto scattare è proprio che l'anno scorso più di 400 bambini a Bologna sono rimasti per la prima volta esclusi dalla scuola pubblica che i genitori chiedevano, e a fronte di queste domande la risposta è stata un'alzata di spalle o al massimo, a chi poteva permetterselo, una iscrizione alle scuole paritarie che, ripeto, hanno delle rette che variano dai 2.000 ai 10.000 euro all'anno. Quindi possiamo dire che non solo questi finanziamenti sono contro la Costituzione, l'articolo 33, ma non funziona neanche questo sistema se dei bambini devono rimanere a casa. Ma esattamente questo, infatti questo è il nodo cruciale. Il nodo cruciale è proprio questo. Allora noi assistiamo al paradosso per cui gli enti privati, i privati possono appunto istituire scuole private con finanziamenti dello Stato, quindi ad onere dello Stato, e soprattutto la libertà di scelta, un altro principio fondamentale della Costituzione, la libertà di scelta ce l'ha solo chi sceglie altro, e quindi chi sceglie la scuola pubblica, che è grazie all'esistenza di tale scuola che quindi ha diritto di esistere, il diritto di scelta, la libertà di scelta, chi sceglie la scuola che comunque deve essere garantita non ce l'ha. Allora assistiamo a questo paradosso, e quindi adesso dobbiamo preoccuparci delle scuole private che restano vuote. Quindi le finanziamo con i soldi di tutti e restano vuote, perché è evidente che c'è qualcosa che non funziona. Voi per libertà di scelta, voglio dire, siamo ormai una nazione che va sempre verso la multiculturalità, quindi voglio dire, ci rendiamo conto che comunque la maggioranza delle scuole paritarie sono comunque di ispirazione comunque cattolica. Quindi, 25 su 27 a Bologna, mi pare, Bologna, no? Sì, 26 su 27, anche se una in realtà non è di ispirazione cattolica, ma ha aderito alla FISM, che è la federazione appunto di scuole materne cattoliche, forse, ed è proprio quella che a quanto pare sarà l'unica che non riceverà il finanziamento, perché è quella che fa pagare 10.000 euro diretta. Quindi di cosa stiamo parlando? I bambini restano a casa, però finanziamo le scuole che fanno pagare delle rette così altissime. Sì, ricordiamo che questo referendum è consultivo, quindi cosa ci aspettiamo? Cosa vi aspettate dalle prossime settimane? Perché già ci sono molte dichiarazioni. Voi con quale spirito, con quale animo? Il referendum è consultivo, noi l'abbiamo sempre detto in tutti questi mesi che siamo stati in mezzo alla strada, perché noi eravamo in mezzo alla strada. Abbiamo detto che era consultivo e che non era vero, come invece il fronte opposto dichiarava, i 420 con insomma l'aiuto anche di tutte le possibilità che loro avevano, essendo il fronte opposto composto, come dicevo prima, dagli apparati di potere. E loro dicevano che dal giorno dopo del referendum 1700 bambini sarebbero rimasti a piedi nudi, scaldi, in mezzo alla strada. Noi dicevamo è un referendum consultivo, cioè un referendum di indirizzo che comunque visto che il Comune di Bologna nello suo statuto ha inserito questo strumento di partecipazione diretta, era come dire, interviene la popolazione su dei temi che comunque trova dirimenti, trova davvero importanti. La scuola dell'infanzia qui a Bologna è importante, lo dimostrano anche, diciamo, i risultati che si sono visti. Invece, come dire, dall'altra parte si è continuato a sostenere che senza questo finanziamento le scuole paritarie chiuderebbero, che senza questo finanziamento 1700 bambini sarebbero in mezzo alla strada, eccetera eccetera, e tante altre cose che adesso non sto qui a ricordare, ma che comunque non è vero, perché il consortimo, adesso si aprono 3 mesi di il consiglio ha 3 mesi per discutere, e dopodiché noi cosa ci aspettiamo? Noi ci aspettiamo che la volontà del cittadino venga rispettata e che non venga ancora una volta messa sotto analisi politiche di flop, di poca partecipazione. Non è poca partecipazione, se appunto, ripeto, la confrontiamo con la forte mobilitazione che abbiamo avuto contro, io penso che no, la nostra è una grandissima partecipazione. Sì, anche perché ricordiamolo a chi ci ascolta, insomma, erano schierati per non abrogare questi finanziamenti alla scuola paritaria, PD, PDL, Lega, Curia, UDC, Monti, Lega delle Cooperative, non so se ho dimenticato qualcuno, ma insomma questi sono molti dei poteri forti bolognesi e non. Devo dire anche a livello locale abbiamo avuto anche altre associazioni, non so, tipo abbiamo avuto CNA, Lega Co, le cooperative, tutti alleati comunque contro di noi, quindi per mantenere il finanziamento alle scuole paritarie, giustamente contro noi referendari. Non dimentico che negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, l'attacco nei nostri confronti è stato veramente stato veramente forte. Ci hanno dato degli ideologici, ci hanno dato degli statalisti, dei conservatori, comunisti, di ogni, ce n'hanno detti di ogni, e noi insomma abbiamo reso il colpo. anche eravamo un po' distrutti, devo dire la verità, perché insomma è stata abbastanza dura. Anche leggendo i giornali ieri e oggi si nota una certa rabbia che schiuma dalle parole dei giornali, diciamo, mainstream, i giornali più, dal Corriere, la Repubblica, eccetera, per non dire di Avvenire di oggi, insomma, che titola Bologna flop del referendum, il sindaco, i soldi rimangono, ma del resto a questi li vengono tolti dalle tasche, quindi nel caso succeda qualcosa, quindi si capisce anche di più perché siano così avvelenati, ecco. No, ma io sottolineo solo una cosa: l'esperienza di Bologna è un messaggio di speranza, finalmente una piccola vittoria della scuola pubblica, e io penso che da qui che bisogna ripartire a livello nazionale, quindi formare tanti piccoli comitati in tutte le città dove è possibile, per dare un messaggio chiaro e forte: la scuola pubblica non si tocca. Non dobbiamo preoccuparci di difendere le scuole private e perché i posti alle scuole private restano vuoti, cioè, quindi mi sono sentita anche dire: ah, ma cavolo, le scuole private sa che rischiano di chiudere perché non ci sono iscrizioni, ma io non mi devo preoccupare di quello. Io mi devo preoccupare come aprire nuove scuole, la scuola pubblica, la scuola che la Costituzione garantisce, la scuola che i cittadini vogliono. Senti, la scuola come l'acqua, la scuola bene comune. Senti, anche come, diciamo, modalità di lotta, modalità di essere attivi e attive, leggo dal manifesto di oggi, il titolo dell'editoriale di Giuseppe Caliceti è "Una scelta popolare che spaventa i poteri forti", e poi il manifesto riporta un articolo, un'intervista a Vuming, che molto si è speso insomma per il referendum, che dice: il vero antidoto all'antipolitica e alla delega in bianco è la palissianamente l'organizzazione dal basso dei cittadini e di tutti coloro che si sentono chiamati in causa dalle lotte civili, da quelle sul lavoro, per l'istruzione. In Italia queste lotte sono in corso da 20 anni, eccetera eccetera. E ti riconosci in questo modo di costruire, insomma, partecipazione politica dal basso? Certo, devo dire una cosa, diciamo che mi riconosco, mi sento una persona che ha sempre partecipato attivamente, ha sempre difeso il bene comune. Però diciamo in questa, come dire, questa volta la moda che mi ha fatto scattare, diciamo, è che ho vissuto in prima persona un diritto negato, cioè non tanto io quanto mia figlia, e vedere mia figlia appunto di 3 anni, che io, come dire, devo tutelare, devo educare, devo farla diventare grande, vederla già esclusa a 3 anni mi ha fatto un tale male che ho detto: no, questa volta non può passare, e ci vuole un impegno. Quindi abbiamo costituito un gruppo di genitori, ci siamo subito mobilitati. Per fortuna Bologna ancora resiste, cioè non dico resiste perché insomma è una parola un po' così che può essere utilizzata in un, come dire, in un altro, insomma può essere travisata, però dico Bologna ancora è un laboratorio di partecipazione, Bologna ancora ha voglia di partecipare. Ecco, quello che i cittadini non vogliono sentirsi dire è che dopo che si sono mobilitati da soli, con le proprie forze, con le proprie risorse, prendendo il tempo libero, quel poco tempo libero che ci resta dopo il lavoro e dopo le mille cose che abbiamo da fare, non vogliamo sentirci dire, ecco, il flop, la gente non partecipa, la gente è disinteressata, non vogliamo sentirci dire questo. Noi vogliamo che la politica diventi quella politica con la P maiuscola, e che quindi chi deve farsi carico di come dire, amministrare le città, ma allo stesso tempo dare risposta ai cittadini, deve comunque tener conto delle istanze che nascono dal basso. E mai come in questo momento c'è veramente bisogno di istanze serie, istanze sentite dalla popolazione, soprattutto c'è bisogno di motivare la popolazione e non di disincentivarla. E invece quando vedo che comunque la politica, ancora una volta i grandi partiti si chiudono a riccio, questo mi fa veramente male, perché il giorno prima del referendum qui a Bologna era uscito un articolo a titoli cubitali su un giornale, perché poi anche i giornali fanno la loro parte, dove si diceva appunto che il PD riteneva come quorum valido per una qualsiasi presa in considerazione del referendum 80.000 votanti. Ecco, ne abbiamo avuto 86.000, di cui più di 50.000 hanno scelto A, quindi io penso che da qui si debba ripartire per prendere in considerazione e per dare finalmente come dire, per dare un bravo ai cittadini, che voglio dire, si sono impegnati. Non dimentico di dire, scusate, sono molto prolissa, lo so, però non dimentico di dire che noi è da due mesi che stiamo dicendo e stiamo urlando ai 420 che l'organizzazione di questo referendum è stata veramente deficitaria. I seggi sono stati messi in luoghi in cui la gente non ci passa neanche, luoghi veramente sperduti. Alcuni cittadini hanno dovuto fare 6 chilometri per andare a votare, eppure ci sono andati. Altri cittadini hanno dovuto essere presi in braccio perché sono stati istituiti alcuni seggi ai secondi piani, voglio dire, a Bologna la gente partecipa, abbiamo avuto degli anziani che comunque hanno avuto grossissime difficoltà, per non dire che tantissimi cittadini non hanno ricevuto la lettera, si presentavano con la tessera elettorale ma i seggi non erano quelli. Voglio dire, c'è tanto da dire anche sull'organizzazione, un'organizzazione presa proprio sotto gamba dall'amministrazione comunale, che veramente non ha fatto il possibile per incentivare la partecipazione, eppure voglio dire la partecipazione è stata più grande di quella che loro si aspettavano, quindi noi siamo molto soddisfatti. E per chiudere, non in bellezza, ma insomma lo stesso giornale a cui tu facevi riferimento per parlare degli 80.000, cioè il Corriere della Sera, ieri parlava proprio di quello di cui stai parlando tu adesso, cioè delle cattive organizzazioni del referendum, dicendo vabbè, la critica è scontata perché il comune ha preso parte e quindi è chiaro che gli altri lo attaccano per questo, quindi niente, secondo il Corriere della Sera non si può nemmeno riscontrare quello che oggettivamente non ha funzionato, insomma. Ma guardi, posso dire una cosa adesso? Va bene, abbiamo fatto il nome, ma non è solo il Corriere della Sera, eh. Cioè io cosa posso dire? In un confronto che io avevo con cioè un confronto voluto con i genitori e diciamo con sia la parte pro B ma anche con parte dell'amministrazione, siccome io non uso mai toni forti, io sono molto, come dire, non uso toni forti, non è il mio stile, alcuni giornali titolavano il giorno dopo, siccome si aspettavano il fight, perché si aspettano sempre un po' i cittadini che sbroccano, i cittadini che sbottano, i cittadini che non ce la fanno più, allora si aspettavano questi momenti un po' critici, siccome questi momenti non arrivano perché invece il confronto è partecipato, voglio dire, e allora poi dopo sono anche un po' delusi, no? Come dire, ah ma cavolo, se non c'è la notizia, se non c'è la lotta, no, come dire, se non c'è il momento di sbrocco, non c'è in un certo qual senso non c'è la notizia, ecco, questo lo vorrei dire. Voglio dire, le discussioni sono abbastanza democratiche, siamo tranquillissimi e sappiamo quello che vogliamo, quindi voglio dire, noi andiamo avanti sicuri che appunto abbiamo dalla nostra il libro dei libri, la Costituzione, quindi cos'altro ci manca. Isabella, noi ti ringraziamo tantissimo e grazie, facciamo tramite te ancora i complimenti a tutto il comitato Articolo 33 e insomma tutte quelle e tutti quelli che si sono impegnati per questo risultato, e vi ringraziamo per averlo fatto. Va bene, grazie a voi e sicuramente speriamo che possiamo essere d'esempio ad altre città. Cogliamo l'auspicio. Ciao, a presto. Grazie, buona trasmissione. Al problema che ponevamo prima, Isabella, cioè cosa si aspettano a questo punto da parte dell'amministrazione comunale di Bologna. Evidentemente i referendari si aspettano che venga rispettato l'esito del voto contrario alle scuole paritarie, però diciamo sulla stampa di oggi e nelle dichiarazioni di oggi che evidentemente questa non sembra essere l'intenzione, non sembra essere questo l'intendimento dell'amministrazione comunale e del sindaco, perché Merola, appellandosi peraltro a questo malinteso senso di flop della partecipazione elettorale, afferma, dichiara proprio che l'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di non rinunciare alle convenzioni, e appunto peraltro questa è una posizione che non stupisce, perché il sindaco di Bologna l'aveva affermato già in campagna elettorale. Guardando un'occhiata ai giornali, vado a leggere dall'Unità, che dedica una pagina a questa tematica per quanto riguarda oggi, a questo si affianca il punto di vista di Francesca Pugliesi, che è il responsabile PD per il settore scuola, la quale appunto ribadisce che non può essere messa in discussione la politica delle convenzioni, ma che peraltro diciamo punta il dito anche sulla formula attraverso la quale veniva presentato il quesito referendario, affermando che in realtà la vittoria della consultazione è determinata da una cattiva da un cattivo modo di porre il quesito, che a suo dire sembrava più un sondaggio di opinione che altro, perché, e questo è illuminante dal suo punto di vista, se si domanda a una persona se è il caso di dare 1.200.000 euro alla scuola pubblica o alla scuola privata, è naturale rispondere che debba essere destinato alla scuola privata, ed effettivamente così è, quindi non si vede quale sia l'argomento del contendere. Sì, diciamo che su questa linea della, diciamo, della mistificazione, anche così, del andare contro il semplice buonsenso, diciamo che questo referendum, la campagna per il referendum e anche i commenti dopo i risultati, come dire, sono assolutamente esemplari. Quindi noi siamo partiti dal fatto che chiedere soltanto di non dare più i soldi pubblici ai privati era una violazione della Costituzione. Queste sono le affermazioni che ancora oggi vengono fatte da, per esempio, l'associazione Genitori Scuole Cattoliche, che per bocca del presidente Roberto Gontero dice: il risultato tende a negare la libertà di educazione e di sussidiarietà, principi sanciti dalla Costituzione. Quindi dare soldi pubblici ai privati, vietare questo sarebbe contro la Costituzione, quando in realtà l'articolo 33 è molto chiaro. E altra mistificazione è negare quello che si è detto il giorno prima. Quindi la domenica mattina chi leggeva il Corriere della Sera, Cronaca Bologna, diceva che 80.000 persone sarebbe stato una soglia accettabile, quindi da ascoltare. 86.000 si sono presentati, votati, col 60% che chiede, 50.000 che chiedono, che votano A, e questa diventa un flop. Quello che prima Isabella ci stava raccontando in realtà è che forse, diciamo, è la linea futura, è che in realtà la lotta continua, cioè parte da adesso, cioè si parte da questi 50.000, di queste 50.000 persone che hanno speso il loro tempo, le loro energie, le loro intelligenze per una lotta di concreta e di principio. Diciamo, il vantaggio, la bellezza che io, che noi forse abbiamo visto in questa lotta, è che si partiva da cose concrete, da una lesione dei diritti concreti e anche del diritto di principio, perché qui si nega quello che c'è scritto, le parole della Costituzione. Quindi se si può fare questo, si fa qualsiasi cosa. Il PD e tutti quelli intorno al PD, ma noi parliamo di PD perché da loro forse qualcuno poteva non aspettarselo, in realtà sta clamorosamente, si è schierato da Prodi a Renzi, il vecchio e il nuovo, come dire, senza distinzione né di sesso né di religione né di età. Sì, molti non se l'aspettavano per un altro atteggiamento dal PD, anche perché questo va proprio ricordato, insomma, alle paritarie, anzi anche sì, alla definizione di scuola paritaria è stata opera del PD di Berlinguer con la legge 62 del 2000, che ha parificato appunto le paritarie alle statali. Sì, non c'è stata però neanche una voce di dissenso all'interno, e quindi quello che si registra è che chiamiamola la base, anche se ormai, cioè, la base sta diventando una pasta sfoglia, una sottiletta del PD, in realtà non sta più seguendo le indicazioni tutte, come dire, monolitiche, che sono sempre quelle sbagliate. Tutte le lotte, questa è l'ennesima lotta che il PD toppa, appunto parliamo dei beni comuni, per non parlare delle lotte notav eccetera. Beh, almeno sull'acqua, in maniera vergognosa, gli ultimi 3 giorni fece finta di averlo sostenuto il referendum, invece in questo caso niente. Neanche il giorno dopo, neanche postumo. E quindi la lotta sarà, come dire, di sorvegliare cosa succede dentro il Consiglio Comunale di Bologna nei prossimi mesi, perché lì dentro ci sono tutti quelli che hanno fatto carte false, hanno ostacolato, hanno come dire, insultato anche la logica. E per quanto riguarda, per tornare un attimo, ma un passo piccolo indietro, a quello che si diceva, la legge 62 del 2000, in realtà la legge del 62 del 2000, ministro Berlinguer, è quella stessa che non solo equipara il sistema delle scuole paritarie al sistema pubblico, ma che evidentemente va a destinare contributi economici per il sistema scolastico integrato e quindi conseguentemente per le scuole paritarie, perché precedentemente non esistevano contributi statali per il sistema delle scuole paritarie, e quindi, diciamo, effettivamente ce lo aspettavamo, ma entro certi limiti, che il PD fosse poi contrario. Anche perché, voglio dire, 50 anni di DC, ce lo dicevamo ai tempi di Berlinguer, non erano, e 50 anni di ministri dell'istruzione DC, perché erano stati tutti democristiani prima di lui, non erano riusciti a compiere. Non avevano usato tanto. E invece Berlinguer sì, evidentemente. Altre 2 o 3 dichiarazioni, sempre di insomma, diciamo, dello stesso stampo, le prendo da Avvenire. La prima è della Compagnia delle Opere, anzi è il sottogruppo Opere Educative della Compagnia delle Opere, che ricordo è il braccio commerciale sì, di Comunione Liberazione. La forza dei fatti, il fallimento dell'ideologia. Sintetizza così appunto la Compagnia delle Opere di Bologna: vi è stata un'altissima astensione, che è il primo dato significativo. Ora l'auspicio è che il Comune sia spinto a fare passi avanti sulla strada della collaborazione tra tutti i soggetti, cioè loro vogliono più soldi sostanzialmente. Credo che voglia dire questo, che ora il Comune... Collaborazione, sì, come si può collaborare con CL? Versandogli dei soldi. Ma credo. Sono già al Ministero, l'abbiamo sottosegretario. Ma lo sai che ci sono fondi degli enti locali e fondi dello Stato, e loro li vogliono tutti, giustamente. E poi c'è l'AGESH, che suppongo siano dei è questa. Ah, è questa, quindi sì, l'abbiamo già letta. E poi c'è ANINSEI, che è l'Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e Istruzione, che è legata invece a Confindustria, la quale dice: a Bologna l'ideologia ha avuto la meglio sul buonsenso. È sembrato di assistere a una battaglia tra Guelfi e Ghibellini, afferma il presidente di Aninze, Luigi Sepiacci. La scarsa partecipazione dimostra ancora una volta che si è trattato di una battaglia di nicchia, la battaglia di pochi. E quindi sostanzialmente chi non è andato a votare è dalla parte loro? Questo è? Sì, questo. Peccato che... Questo vogliono peccato dire. Peccato che non abbiano fatto minimamente campagna per l'astensione, anzi erano certi di andare e vincere a mani basse. E sì. Poi un altro dato che ci dà sempre Buminga in quell'intervista sul Manifesto e che insomma aiuta a interpretare questo, e qua ci dice che 50.000 voti sono la metà di quelli che ha preso Merola per diventare sindaco del Comune di Bologna. Quindi insomma, se non vanno bene per questo referendum, forse anche Merola non è propriamente legittimato a stare dove sta. Direi di no, ma se facciamo il conto, adesso non voglio dire, però il referendum era consultivo, quindi già si sapeva che non avrebbe avuto un effetto immediato, benché abbiamo capito che era decisamente importante partecipare e essere coinvolti e coinvolgere prima. Ma in realtà, se andiamo a vedere oggi che diciamo qui a Roma si festeggia diciamo il quasi successo di Marino, il PD anche che gioisce, forse, non so, ha preso il 26% a Roma sul 50%, andiamo a vedere sul totale il 13%, 13% che decide sostanzialmente, è il partito che guida, che elegge il sindaco di Roma che muove milioni, centinaia di milioni, miliardi di euro. Sì, lo stesso Marino, se prendiamo gli aventi diritto, ha preso il 20%, non è che sì, ha preso appunto, di più. Quindi diciamo percentualmente siamo sullo stesso livello, questi 50.000 di Bologna hanno la stessa dignità di quelli che eleggono Marino qui a Roma, quindi forse è il caso di entrare nei contenuti, ma poiché entrando nei contenuti PD, PDL, Lega, Curi, eccetera, sono perdenti su tutta la linea, è chiaro che devono un pochino intorbidire le acque. Quello che noto è che se sono pochi 50.000, i 15.000 che hanno votato invece no sono forse una miseria. Mi veniva da commentare che probabilmente neanche le suore sono andate a votare, hanno votato B, e quindi non lo so, boh. Sì, perché proprio in riferimento a questa cosa che tu dicevi e che già hai accennato prima, forse va specificato bene che diciamo il fronte, chiamiamolo così, del no, quindi il fronte della B, non ha fatto propaganda per l'astensione, perché appunto non c'è quorum nel referendum, ma di fatto l'amministrazione comunale, il PD, il fronte che è stato citato prima, ha fatto una propaganda diciamo accanita, come abbiamo visto, per mandare le persone, certo, a votare. L'amministrazione comunale è arrivata a mandare una lettera a casa dei bolognesi e voglio dire, si è fatta propaganda come possiamo immaginare nelle parrocchie, ma una propaganda per il voto, non contro il voto. Quindi adesso, voglio dire, l'astensione diventa invece un viatico per sì, l'amministrazione comunale. No. Ah, ovviamente erano 35.000 i votanti per il B. Io adesso vi farei sentire un'opinione, insomma, di una voce piuttosto nota da questi microfoni, ma anche altrove, cioè quella di Ascanio Celestini. Prendiamo direttamente dal sito di Articolo 33, mi sembra una riflessione interessante. Era stata registrata prima del voto, evidentemente, ma l'interesse rimane. Quindi la mandiamo adesso. Un saluto a tutte quante, a tutti quanti, e non entrerò nel merito della questione che state affrontando, nel senso che... No, c'è qualcosa che non torna, un attimo solo, perché c'era anche Guccini contemporaneamente a Ascanio Celestini, quindi lo riprendiamo, perché insomma tutte e due contemporaneamente ci pare troppo. Allora, vediamo un po' se adesso ce la facciamo. Anzi, meglio di me. No, non ce la stiamo facendo, non capisco cosa sia successo, scusate. Ecco, ora forse ce la faccio. Che volevo rilevare è un dato nazionale, ovvero sia che si stanno moltiplicando le situazioni di conflitto in questo paese, ed è una cosa buona, nel senso che lì dove c'è un'imposizione e non c'è una risposta conflittuale, evidentemente l'imposizione va a buon fine. Non è un caso che poi molti di questi movimenti abbiano un no nel loro nome: no TAP, no Dal Molin, no MUOS, no inceneritore, eccetera eccetera, no ponte, perché effettivamente dire no significa prendere la parola. Quando c'è un'imposizione, chi impone una condizione non si aspetta che gli si risponda di sì, cioè si aspetta, anzi il sì equivale a tacere. Quindi questo è molto importante. In tutte queste situazioni ci stanno alcuni dati politici molto interessanti, il primo dei quali è la rinuncia alla delega e quindi alla rappresentanza. Nessuno delega, nessuno rappresenta nessun altro, e questo è uno dei motivi per i quali i partiti, le istituzioni della politica non amano questo modo di fare politica. E l'altro dato fondamentale è la mancanza della personalizzazione. Noi abbiamo visto in questi anni i partiti trasformarsi in partiti persona, con i nomi e anche nel simbolo molto spesso, da partiti fortemente verticalizzati e personalizzati. Ecco, in questo caso invece c'è una sostanziale clandestinità, e non una clandestinità diciamo avvolta nel mistero perché qualcuno nasconde la propria faccia e il proprio nome, ma una clandestinità data dalle condizioni, cioè appunto nessuno è più importante d'un altro. E l'ultimo elemento fondamentale, diciamo così, anche ottimista, anche questo in un certo senso, è che spesso non è neanche fondamentale vincerle queste battaglie. Ovviamente è meglio vincerle, insomma, che invece che perderle, però la cosa davvero importante è che il conflitto ci sia, perché una sconfitta alla fine di un conflitto portato avanti oggi determina in realtà una vittoria domani, nel senso che se in Val di Susa faranno l'alta velocità, è sicuro che però non andranno lì a farci un inceneritore, una discarica, non ci metteranno la base militare americana, perché è evidente che anche se ci fosse una sconfitta, quello è un territorio attivo che difficilmente, insomma, verrà in seguito violato. In bocca al lupo. Siamo qui su All'ora di buco, Radio Onda Rossa, sono le 16:40 e abbiamo al telefono un altro promotore di questo referendum di Bologna. Abbiamo prima parlato con Isabella, congratulandoci con voi. Grazie. E volevamo un pochino continuare su questo, nel senso che ci eravamo lasciati sul fatto che su questo invito a estendere questa esperienza di Bologna, e questa cosa peraltro pare anche terrorizzare molto la parte avversa, cioè la grossa coalizione, la parte avversa, e nei commenti che abbiamo letto, questa rassegna stampa che stiamo facendo, qui ho sotto gli occhi il presidente dell'AGESC che dice, dopo quello che abbiamo detto sulla Costituzione, che l'accentuato astensionismo ha costituito un fatto grave, e su questo si rende necessaria una riflessione anche tra i cattolici, ma anche però tra i referendari, prima di intraprendere percorsi analoghi. Cosa pensi di questo? Bruno Moretto. Sì. Dunque, intanto l'astensionismo l'hanno avuto loro, e infatti si stanno preoccupando di questo, no? Noi l'astensionismo non l'abbiamo avuto, perché adesso gli ultimi dati ufficiali danno che la percentuale di partecipazione in realtà è 30%. Hanno fatto una porcheria infilando dentro più di 10.000 elettori residenti all'estero, ma senza dargli la possibilità, le facilitazioni che ci sono alle elezioni politico-amministrative, e per abbassare la percentuale e poter dire questa cosa, più tutte le difficoltà che i cittadini hanno avuto, non hanno ricevuto la lettera per andare ai seggi. Mi fermo un attimo per spiegare questo, che forse da fuori non si capisce. Allora, normalmente uno vota nel proprio seggio, sa dov'è, no? Sì, sì, l'abbiamo detto, questi erano anche a 3 chilometri da casa. No, anche 6, non 3. In questo caso, non avendo voluto, come avevamo richiesto, accorpare il referendum alle elezioni politiche di febbraio, sono stati istituiti seggi in postazioni comunali, il che ha prodotto quell'effetto lì, no? Che noi abbiamo avuto decine di migliaia di cittadini che dovevano votare a 5-6 chilometri dalla loro sede di residenza. Quindi noi pensiamo che nonostante tutte queste difficoltà, alla fine il fatto che abbiano votato 87.000 cittadini sia un risultato straordinario, perché l'hanno fatto superando tante difficoltà. Quello che dice il presidente di AGES è che loro non sono riusciti a portare i loro a votare, no? Perché alla fine i voti assoluti sono stati 51.000 a favore dell'A e 35.000 per uno schieramento che andava da dalle Appennini alle Ande, Confindustria, PD, PDL, Lega Cooperative, Comunione di Liberazione, tutti avrebbero dovuto vincere a mani basse, no? Invece hanno perso, questa è la realtà. E questo, noi pensiamo che questo modello di movimento dal basso su un tema così importante come quello della scuola si possa espandere in tutte le città, e ci aspettiamo questo. A questo punto anche noi ce l'aspettiamo, e cercheremo anche di collaborare senza aspettare che scenda dal cielo, perché dal cielo non scenderà, insomma. E senti, invece, per quanto riguarda proprio il proseguimento di questo percorso lì a Bologna, perché è evidente che Merola, insomma, dalle dichiarazioni sui giornali non ha come dire proprio l'intenzione di prendere in mano. Intanto ha abbassato la cresta, perché fino a due giorni fa faceva lo sbruffone, no? E aveva addirittura detto che a partire da questo referendum si sarebbe dovuto rifondare il PD. Bene. Non aggiungo altro, così ci capiamo. Insomma. No, non aggiungiamo un altro per pietà. Il risultato sia lo stesso. Esatto. È abbassato la cresta, adesso dice parliamone. Ma i cittadini hanno detto chiaramente quello che vogliono, no? Vogliono che i soldi che oggi vengono dati alle scuole private, più di 1 milione di euro, l'anno scorso 1,2 milioni, vengono dati invece alle scuole comunali e statali per garantire il diritto all'istruzione pubblica, gratuita, laica e pluralista a tutti quelli che la chiedono. E noi chiederemo il rispetto della volontà degli elettori. Ma ci saranno assemblee? Oh certo, adesso in questo momento stiamo organizzando una grande festa. Bene. Perché senza festa non c'è vittoria, no? Beh, abbiamo visto già una torta con sopra la Costituzione. Sì, già, quella lì è stata fatta quella sera lì al volo, ed è stata una festa di tutti quelli che erano lì, che avevano lavorato, di tutti, di tanti, ma non di tutti, perché noi abbiamo avuto 150 persone che si sono impegnate nei seggi. Senza di loro il risultato sarebbe stato inferiore, perché l'organizzazione comunale era stata totalmente deficitaria, non a caso, e quindi hanno lavorato dalle 7 di mattina alla mezzanotte per garantire che tutti i cittadini potessero votare, che il loro voto fosse riconosciuto. E il mio ringraziamento, prima di tutto, il nostro di tutti quanti, va a loro, no? È stata una cosa commovente e impressionante. A Bologna sicuramente si è creato un gruppo che può andare avanti e rivendicare questo successo e imporre all'amministrazione il rispetto di questo, e speriamo che possano succedere cose analoghe in altre città. Senti, a proposito di cose analoghe in altre città o nel paese, insomma, noi abbiamo provato a buttare un occhio su questi finanziamenti pubblici alle scuole private in termini più generali, insomma, rispetto a quelli statali. Sì, è molto complesso, perché appunto ci sono dei finanziamenti statali, ma poi ci sono tutti quelli regionali, provinciali, comunali, che è molto difficile quantificare. Sì, ma a Bologna il rapporto è metà e metà, cioè parliamo delle scuole dell'infanzia di Bologna, ma si può, che il grosso del finanziamento va lì, no? E nelle scuole dell'infanzia a Bologna 1,2 milioni lo dà il comune e 1,2 milioni lo dà Stato e Regione, e più o meno io penso che questa sia la proporzione che c'è almeno in tutto il centro-nord. Ecco, in tutto il centro-nord, mentre al sud la situazione è già un po' diversa, perché lì i finanziamenti locali purtroppo in generale non ci sono nella scuola, però sicuramente da Roma in su è così. Quindi simile anche alla Lombardia, o la Lombardia pensi che in questo sia un caso a parte, perché insomma la Lombardia ha finanziamenti piuttosto forti? Simile alla Lombardia. Sì. Poi la Lombardia c'ha questo modello del buono scuola, cioè principalmente finanzia le famiglie rimborsando le spese sostenute, quindi questo fa ancora più scandalo, ma sotto c'è il finanziamento diretto anche in Lombardia. Cioè ci sono due livelli di finanziamento, quello buono scuola tipo Lombardia, che aveva tentato anche di fare anche l'Emilia Romagna nel 99, che fermammo raccogliendo 60.000 firme per un referendum regionale, e poi c'è questo finanziamento diretto alle scuole materne private paritarie che sicuramente c'è in tutti i comuni del centro-nord, e che quindi in Lombardia si aggiunge al buono scuola. Probabilmente quindi in Lombardia la situazione è peggiore, perché ci sono due livelli di finanziamento, ecco. Ma comunque due livelli di finanziamento ci sono di fatto dovunque, nel senso, c'è il finanziamento statale, se capisco bene. Beh, il finanziamento statale c'è in tutta Italia. Questo è certo, e la cifra è circa 14.000 euro per classe di scuola dell'infanzia, più 19.000 per le scuole primarie, più quote inferiori, ma comunque ci sono anche per le medie e le superiori. Questo è il finanziamento statale, che assomma circa 530-540 milioni di euro, no? Sì, sì, sì. Ogni anno. Poi c'è tutto quello locale, e noi abbiamo sollevato questo scandalo, no? Che non si vedeva, diciamo così, no? Perché si guardavano sempre i dati nazionali e non si vedevano quegli altri. Sì, anche con una certa capacità, devo dire, insomma, perché siete riusciti a rompere un muro del silenzio abbastanza forte su questo tema, perché insomma non era un tema facile da far approdare sulla stampa italiana, ecco, e alla fine hanno dovuto cedere. Ti ringrazio dei complimenti, ma perché Bologna ha una sua storia, è una storia lunga. La prima volta che viene usato il termine scuola dell'infanzia, non materna, no? Quindi scuola a partire dai 3 anni, è nel 1967 a Bologna, è il modello, e poi nell'anno dopo viene istituita la scuola dell'infanzia statale, e quindi i bolognesi, le bolognesi poi soprattutto, per dire la verità, insomma, no? Si sono, mia madre me l'ha raccontato, insomma, no? Si sono battute perché i bambini fin da 3 anni potessero andare a scuola, imparare, no? Cominciare il percorso dell'istruzione, e quindi si ricordano di questa cosa. E a Bologna stava, speriamo di cambiare con questo referendum, succedendo l'opposto, cioè ci venivano tolti dei diritti che ci eravamo conquistati, e da lì è venuta fuori la molla, no? Che ha spinto tanti genitori come Isabella a ribellarsi e a spingere poi tanti altri a dire: allora adesso interpelliamo i cittadini, perché siamo sicuri che la pensano in modo opposto alla politica che sta facendo il comune di Bologna, che era il comune virtuoso, quello che aveva istituito la scuola dell'infanzia e il tempo pieno negli anni 60, no? Con certo minori risorse di oggi, no? Ma coinvolgendo i cittadini in questa battaglia. Sì, cittadini che anche questa volta, insomma, si sono autocoinvolti evidentemente con passione, e questo, insomma, è l'altro tema, credo, importante della vostra lotta referendaria, cioè la capacità di costruire dal basso. Ma sicuramente, cioè, è stata un'esperienza indimenticabile di passione, di partecipazione di tanti, di sostegno di tanti cittadini e cittadini, se no non saremmo arrivati qui, su questo non c'è dubbio, e si è visto anche al momento del voto, appunto, in tutto il percorso da settembre, quando abbiamo cominciato a raccogliere le firme, fino a ieri l'altro, e ancora oggi. E adesso noi dobbiamo fare la festa per ringraziare loro. Quando e dove la fate la festa? Adesso stiamo cercando il luogo, perché le condizioni climatiche sono ancora avverse qui a Bologna. Quindi dobbiamo trovare. Anche a Roma, guarda, c'è freddo. Quindi. Allora è dappertutto. quindi stiamo ancora, oggi stiamo lavorando per questo, ma entro la settimana la facciamo. Fatecelo sapere. Certo. E niente, ti ringraziamo anche per questa partecipazione radiofonica e complimenti ancora. Ma ringraziamo voi dell'attenzione che ci date, è un grande sostegno. Grazie a voi. Ciao. There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed. Ultima notizia, arrivano i dati dell'indagine OCSE-PISA, che chi frequenta le scuole conosce bene, che sono dei test, altri test sulle competenze in lettura, matematica e scienze di quindicenni di mezzo mondo. Sono arrivati gli ultimi dati e dicono che a fare precipitare gli studenti italiani in fondo alle classifiche internazionali sono proprio gli istituti non statali. Senza il loro contributo, a proposito di contributo, la scuola italiana scalerebbe le 3 classifiche in lettura, matematica e scienze stilate dall'OCSE di 10 posizioni. Quindi questo per i cultori dell'OCSE, della meritocrazia, dei test, delle classifiche, forse dovrebbe essere anche un elemento di riflessione. Le scuole private, le scuole cattoliche sono anche delle scuole in cui, stando a questi test, si apprende meno, si studia meno, si è meno ricchi, si è più esclusi. In realtà il vero elemento di riflessione, a mio modo di vedere, di fronte a questi dati sembra essere: ma per quale motivo le classifiche, appunto, OCSE PISA vengono usate come una clava contro la scuola pubblica? Perché è normale per noi sentirci colpevolizzati per via del fatto che i nostri studenti, complessivamente intesi, apprendiamo adesso, siano nettamente inferiori rispetto a quelli che sono i parametri europei, mentre invece forse chi legge queste indagini e ci crede, forse, certo, in buono o in cattiva fede, non lo so, però dovrebbe imparare a leggerle e leggerle correttamente. Sì, a questo punto trarne le conseguenze dovute, e quindi chiedere la chiusura delle scuole cattoliche, quelle scuole private, perché non danno rendimento adeguato al mondo, e oppure chiedere... Guarda, da qui alla rivoluzione gliele possiamo pure lasciare aperte. L'importante è che non le chiamiamo paritarie, non le inseriamo in un sistema di istruzione statale, eccetera, eccetera. E che i soldi della scuola statale vadano alla scuola statale e non vadano alle scuole paritarie. E che se proprio si devono tagliare ore di insegnamento nelle scuole pubbliche, c'è quella bellissima ora di religione che a volte diventa due o tre nella scuola appunto primaria, che è lì inutilmente buttata al vento e pagata dagli italiani. Sì, insomma, vabbè. Comunque sì, ripetiamolo. Allora, i dati OCSE PISA ci dicono che gli studenti e le studentesse italiani e italiane, cioè delle scuole italiane, non vanno peggio di quelli europei. Sono quelli delle scuole private in Italia che vanno peggio del resto d'Europa. Così, se vi era sfuggito il dato, è questo sostanzialmente. Gli studenti delle scuole di Stato sono in linea con i parametri europei, per quanto possa interessare questo, però è questa la realtà. Cioè, a noi non ce ne frega assolutamente niente, però siccome invece c'è chi interessa molto, noi glielo comunichiamo, ecco questo. E 16:57 minuti, stiamo per lasciare i microfoni al martedì autogestito da Femministe e Lesbiche. Mandiamo anche la nostra voce di solidarietà agli studenti e alle studentesse bolognesi caricati dalla polizia ieri, dopo essere stati caricati giovedì scorso, ma questa volta con risultati, come dire, più simpatici, più dinamici, nel senso che alla fine la polizia se n'è dovuta andare da quella piazza. E quindi niente, con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre alle 16 del martedì, e se volete parlare con noi, Onda Rossa, ora di buco chiocciola Onda Rossa punto info. Ciao nel momento in cui troverò la sigla che pare in questo momento scomparsa, e allora noi la ricarichiamo di nuovo. Se eccola, no la canto io. Cara maestra, un giorno